9 in punto con Simone Spezia. Le 9 e 10 minuti, buona giornata cari ascoltatori da Simone Spezia. Come già vi accennavamo nell'anteprima, oggi parleremo di un libro. Il libro, forse lo avete già letto, probabilmente ne avete già sentito parlare, se non erro è alla terza edizione, è Contro i papà di Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, che intanto saluto, buongiorno. Buongiorno a voi. Ne parliamo perché... insomma, non dovete aspettarvi un trattato di pedagogia o un modo per spiegarvi, insomma, come insegnare la vita ai vostri figli e come essere dei buoni padri. È, a nostra opinione, una volta letto, un libro che abbastanza chiaramente cerca di affondare il coltello, anche piuttosto provocatoriamente, in quelli che sono alcuni dei mali del nostro paese. Una condizione giovanile che è sempre sulla bocca di tutti, che ha delle ragioni insite naturalmente nella crisi, ma ha delle ragioni insite nell'educazione, in quello che siamo, almeno questa è la tesi di Antonio Polito. Allora io vorrei iniziare questa trasmissione ricordandovi l'800 24 00 24, in questo caso le vostre opinioni sono particolarmente importanti, già ce ne arriva qualcuna e poi le leggeremo via Twitter con l'hashtag 9 in punto, 9 scritto a lettere. Vorrei iniziare da una parte dell'introduzione che già dice molto sulle tesi del libro, sentiamo. Questo è un libro contro i padri. Non contro i padri che abbiamo avuto, ma contro i papà e i papi e i papini e i paponi che siamo stati e che siamo. I padri che abbiamo avuto, come il mio, hanno fatto il loro. Non che ci fossero molto, né che noi gli abbiamo permesso di esserci tanto nelle nostre vite. Non disponevano di tutto il tempo libero di cui disponiamo noi. All'epoca loro il pane era nero e la fatica tanta. Non dico dunque che ci aiutarono con il loro esempio, con i loro consigli, con la loro guida, tranne in rari ed encomiabili casi. Ma si prestarono a fare ciò che da mondo in mondo un padre deve fare, opporsi al figlio. Diventarne la controparte, incarnare uno stile di vita diverso, impersonare il passato, consentire che il figlio gli si rivolti contro e così facendo conquisti la sua emancipazione. Noi papà di oggi invece vogliamo fare i fratelli, non i padri. Vogliamo aderire al progetto di vita dei nostri figli, invece di lasciare che si modelli per opposizione al nostro. Vogliamo aiutarli a realizzarsi senza comprendere che l'unica forma di realizzazione è l'autorealizzazione. Diventiamo un muro di gomma contro il quale non c'è nessun gusto a sbattere, irritante e indisponente proprio perché non si può abbattere. Contro i mattoni dei solidi muri edificati dai nostri padri ci siamo fatti male, a furia di dare capocciate. Ma che soddisfazione quando abbiamo aperto una breccia e abbiamo visto, dall'altra parte, la nostra vita così come ce l'eravamo conquistata. E questo, come si diceva, è una parte dell'introduzione. Poi, insomma, il libro scende più nei dettagli e nel racconto. Non ci troverete molti numeri, o meglio, ci troverete solamente quelli essenziali, insomma, che Polito ritiene essenziali a sostenere la tesi che sostiene. Mi sembra di capire complessivamente, poi vorrei arrivare appunto molto presto alle domande degli ascoltatori, che venga identificato in questa nuova figura del padre, che insomma è della tua generazione, un aspetto centrale, e se non centrale comunque molto importante, di quello che viene genericamente definito il declino italiano. Sì, ma è esattamente così, nel senso che, come dire, questa polemica contro la mia generazione, perché poi di questo si tratta, di quelli nati negli anni 50 col baby boom, è una polemica contro le condizioni, contro l'Italia che abbiamo costruito, contro le condizioni del paese in cui ci troviamo. E penso che l'abbiamo fatto noi, ecco, insomma, io credo che bisogna cominciare a riconoscere anche, sai, quando si protesta contro le condizioni della società in cui si vive, ce la si prende sempre con qualcun altro, che in genere sono i governanti, i quali ovviamente hanno le loro notevolissime parti di colpa, ma si dimentica che molto spesso i problemi affondano le loro radici anche nella cultura e non soltanto nella politica, e quindi spesso nascono nelle famiglie. Non si può riflettere criticamente sull'Italia di oggi senza riflettere criticamente sulla famiglia e sull'impostazione che ha dato in casa alla vita dei figli e fuori alla organizzazione, per esempio l'università o dei servizi sociali o del mercato del lavoro che riguarda i figli. Spesso si tende contro questo atteggiamento, mi sembra che prendi una posizione abbastanza ferma, si tende ad essere piuttosto giustificazionisti sulla vita dei nostri figli, no? Si dice: perché rimangono in casa? Rimangono in casa perché non c'è lavoro, rimangono in casa perché non trovano un lavoro decente. Tu dici: in realtà siamo noi che alla fin fine ce li vogliamo tenere in casa, no? Ma sai, rimangono in casa per tutte queste ragioni, naturalmente le ragioni sociali ed economiche non si smarriscono, però tu poi vai a vedere gli studi, le statistiche, e scopri che più alto il reddito della famiglia, più rimangono in casa. Allora vuol dire che non è esattamente perché non ci sono i soldi perché vada fuori, magari certe volte perché ci sono i soldi perché resti in casa. Se tu vai a vedere negli Stati Uniti, gli italoamericani restano in casa più a lungo di tutti gli altri gruppi etnici. E lì non è questione di reddito, è questione di cultura. È proprio questo il punto, cioè c'è qualcosa nei nostri comportamenti che poi influenza la politica, ovviamente, perché noi poi votiamo secondo le nostre idee, secondo le nostre costruzioni culturali, che, di cui siamo responsabili, che è in parte responsabile della condizione in cui si trovano le giovani generazioni. Questo è un po' il punto del libro. Antonio, ci scrive un ascoltatore via Twitter, mi ripeto, l'hashtag è 9 in punto, dice: il problema di quelli come Antonio Polito, te la dico proprio brutale perché ha la brutalità dei 140 caratteri, no? Il problema di quelli come Antonio Polito è che pensano che tutti i giovani siano dei viziati come i figli loro. Allora, non sono questioni quelle che ti stai ponendo e che ti poni nel libro da middle upper class, ossia da classi un po' più agiate, e che in realtà non riguardano un mondo assai ampio di persone meno danarose? Dunque, intanto io la parola viziati nel libro non la uso mai, tranne in una citazione di una scrittrice, che tra l'altro è un inglese, quindi è un'americana, e quindi lo usa nel senso inglese, che viziati in inglese vuol dire anche rovinati, la stessa parola. Perché viziati poi non vuol dire necessariamente vivere nel lusso, nella felicità, vuol dire anche essere rovinati, per esempio non essere preparati alla vita, e questo è un modo di viziare. Comunque io non la uso mai, e anzi direi che il libro è tutto ossessionato dal tema della giustizia sociale. E io faccio un solo esempio: se diciamo, noi difendiamo certe volte dei sistemi che riteniamo socialmente giusti, come per esempio l'università gratuita per tutti, e non ci accorgiamo che dietro il sistema che abbiamo costruito invece c'è una grande ipocrisia che frega i più poveri. Sono dati degli ultimi tempi dimostrati: quelli più poveri in Italia, cioè sotto i 40.000 euro di reddito, ogni anno danno 2 miliardi e mezzo di euro a quelli più ricchi, versandoli nelle casse del fisco che servono a finanziare l'università, dove vanno soltanto in prevalenza i figli dei più ricchi. Quindi lì ci troviamo di fronte a un classico caso di finta uguaglianza, no? L'università è libera, è facile ed è gratuita per tutti, ma in realtà è pagata dal fisco, quindi è pagata in gran parte da quelli che magari i figli non ce li possono andare all'università. Nel libro c'è un capitolo dove racconto di due casi di ragazzi che mi hanno scritto dopo un articolo sul Corriere sullo stesso argomento, che raccontano come loro stanno alla Bocconi e raccontano: io sono il figlio di un operaio di una parrucchiera, io sono il figlio di un barbiere, io ho fatto tutto da me, io mi sono pagato gli studi, io ho faticato. In genere alla Bocconi le statistiche dicono che quelli che vengono dal sud di condizioni sociali più disagiate hanno ottenuto i risultati migliori e più rapidamente, perché l'ascensore sociale, l'affrancarsi dalla condizione di dipendenza economica, di difficoltà sociale eccetera eccetera, sta lì, sta nello studio e nella capacità di emergere. Quindi non è affatto così, cioè questi sono problemi che riguardano molto di più i giovani che vengono da famiglie modeste, Faccio per esempio un capitolo su che cosa devono fare i genitori con i loro risparmi, se finalizzarli a comprare un piccolo appartamento o a pagare una migliore istruzione ai figli. E là, Antonio, ci sono insomma, dati tirati fuori da una ricerca sviluppata anche dalla tanto vituperata ministra Fornero, prego. No? Sì, no, ma dico, ma anche lì io mi occupo ovviamente di gente che fa una vita di sacrifici per mettere da parte, che ne so, 100.000 euro, cioè per mettere da parte i soldi per comprare un appartamentino al figlio. Non mi occupo mica di chi ha i soldi per fargli la casa, l'università, la villa, gli sci, eccetera, eccetera. Quindi no, per dire, insomma, il mio problema è quello, cioè come restaurare in Italia un minimo di ascensore sociale che porti quelli che hanno talento e merito in alto. Ricordiamoci che la Costituzione lo dice, che bisogna spianare le difficoltà che frenano coloro che hanno talento e merito. Quindi in qualche modo già la Costituzione definisce a chi ci si rivolge. Abbiamo le prime telefonate. Giovanni che ci chiama da Roma, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Niente, io sono un docente, quindi sono in contatto con i giovani praticamente tutti i giorni. E devo dire che la situazione attuale vedo molto, molto disagio tra questi giovani e bisogna anche, secondo me, stare molto attenti a come si interagisce con loro, perché da una parte sono pochi e quindi noi genitori li coccoliamo, loro si adagiano e non si spingono per fare o riuscire, ma non bisogna togliergli la speranza, altrimenti si fa peggio, altrimenti si avviliscono. Oggi secondo me è importante tornare un po' all'arte del vivere, come dicevano i greci, che consiste nel riconoscere le proprie capacità e nell'esplicitarle e vederle fiorire secondo misura. Ed è molto difficile farli incuriosire e innamorare di se stessi. Quindi bisogna stare molto attenti con questi giovani, stimolarli a fare, stimolarli a crescere, ma nello stesso tempo non attaccarli molto, perché sono molto deboli interiormente, perché sono comunque adolescenti, quindi hanno un cervello non formato, non sono ancora maturi e quindi bisogna stare sollecitarli, ma non troppo, ecco. Giovanni, la sua posizione mi sembra chiara. Sentiamo anche Marcella da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere questo. Il rapporto tra padre e figlia femmina forse è un pochino diverso. Quindi questa opposizione si deve applicare anche nel caso di figlia femmina oppure c'è qualcosa di diverso nel rapporto, secondo l'autore? Grazie Marcella. Sentiamo anche Luigi che ci chiama da Napoli. Oh, salve. Sono collegato? Sì, è collegato, sì. Buongiorno. Salve, scusi, no, probabilmente risulterà forse un po' polemica il mio intervento, però io veramente non... No, ma vanno, mi scusi Luigi, la fermo per dirle che vanno benissimo, insomma, gli interventi polemici ci piacciono perché, insomma, comunque si accende la discussione, non è che vogliamo sostenere una tesi qua, l'importante è che non si trascenda naturalmente, prego. Sì, no, allora il discorso è questo, cioè io vorrei capire un attimo, nel libro, cioè chiaramente critico la riduzione perché il libro non l'ho letto, però voglio dire, innanzitutto questa storia dei padri, dei genitori, il voto, come viene condizionato. Cioè voglio dire, ma ci vogliamo ricordare che la generazione che sta governando così male il paese è quella dei nostri padri, cioè, innanzitutto. Cioè non è che li abbiamo messi noi figli, cioè sono ancora loro. E poi una cosa mi lascia perplesso. Cioè noi abbiamo lottato come figli per essere diversi dalla generazione precedente, che non mi sembra che abbia fatto così bene. Lei di che generazione è, Luigi? Io ho 40 anni e ho due figli. Prego, prego. Dico, questa generazione, insomma, voglio dire, quella precedente si è messa sulle spalle una guerra, quella ancora prima, cioè, storicamente stiamo andando verso un periodo migliore, nonostante la crisi, questa percezione negativa, ma oggi, voglio dire, siamo ecologisti, siamo sensibili, siamo psicanalizzati, psicologizzati, cioè siamo informatici, mi sembra che siamo un po' meglio di questa generazione del pane nero, sgobbona e chiusa, quindi voglio dire, la riduzione del libro, cioè io penso che sostanzialmente stiamo cercando di fare meglio e siamo diversi dai nostri genitori, anche per questo motivo che abbiamo un rapporto diverso con i nostri figli. Quello che è stato generato dalla generazione precedente, ecco, non mi sembra poi così realmente salvabile, insomma, era questa... l'appunto, grazie. Sì, mi sembra che fosse più sulla figura del padre che altro, no Antonio? Adesso così rispondiamo sia a Luigi che anche insomma all'ascoltatrice che ci parlava, insomma, se la questione è applicabile anche alle figlie femmine, beh, insomma, mi sembra di sì, evidentemente. Ma guarda, io innanzitutto volevo rispondere a quell'insegnante che ci ha telefonato, che ha parlato per primo, e dire questo, che io sono molto d'accordo sul punto che noi stiamo colpevolizzando troppo questa generazione, tutta questa roba bamboccioni, no, pigri, eccetera. Infatti io nel libro propongo di sostituire alla polemica sui bamboccioni quella sui babboccioni, cioè io dico pigliamoci noi la nostra responsabilità, noi genitori. E noi anche genitori maschi, perché un'altra cosa facile in Italia è il mammismo, no? È così perché le mamme italiane sono così. No, ha ragione anche il giovane che ha parlato per ultimo, la persona che ha parlato per ultimo, quando dice poi alla fine siamo noi a governare, sono la nostra generazione a tenere in mano le redini del paese, l'economia, i consigli di amministrazione, insomma, voglio dire, sono i maschi cinquantenni e sessantenni che hanno fatto l'Italia così come oggi. Sulla questione che ha sollevato invece l'ultimo ascoltatore, è vero, questa è una ottima osservazione, è vero che non si può guardare al passato idealizzandolo, perché effettivamente la generazione, diciamo, dei nostri padri, noi ci siamo ribellati con il 68 giù di lì, chi ci è arrivato in tempo, chi un po' dopo, ma insomma sostanzialmente siamo stati i primi a ribellarci ai nostri padri. Il problema è che siamo diventati i primi ad obbedire ai nostri figli, e questo secondo me non va bene. È vero che noi, che la generazione di oggi può godere di più agi rispetto a quella precedente, e viva Dio, probabilmente noi abbiamo vissuto nell'età dell'oro, nessuna generazione nella storia è stata più ricca di noi occidentali, europei occidentali negli ultimi 20 anni. Però il punto è che noi abbiamo fatto credere ai nostri figli, figlie comprese, qui dico che appunto è la stessa cosa, abbiamo fatto credere ai nostri figli che questa progressione verso il benessere fosse automatica, normale e senza sforzi. Invece, ahimè, ci stanno accorgendo i nostri figli in questi giorni, in questi anni, che così non è, che la competizione invece è aspra, che la sofferenza sociale può essere forte come in momenti di recessione come questi, e io penso che noi abbiamo ingannato i nostri figli, perché gli abbiamo fatto credere che tutto sarebbe stato facile come era stato per noi. Questo è il rapporto che stabilisco tra le due generazioni. E prendiamo altre telefonate all'800 24 00 24, perché appunto questa è una trasmissione in costruzione, si sta dibattendo di un tema che è quello appunto di come vengono cresciuti i figli, soprattutto da una certa generazione, quella di Antonio Polito, autore del libro Contro i papà. Io che sono di una generazione diversa, sono più giovane di Polito, la vedo in maniera lievemente diversa, sono un padre anch'io di 3 figli peraltro. Voglio sentire un po' di telefonate, appunto iniziamo quello che era in attesa da più tempo, è Giampaolo dalla provincia di Rovigo, buongiorno. Buongiorno. Prego. Niente, sono anch'io papà, diciamo, di un figlio, una figlia per l'esattezza, che frequenta la quarta liceo, e diciamo io sono venuto su, diciamo così, come si suol dire, della gavetta, perciò cercare di capire cosa significa guadagnare 5-10 euro, al tempo si trattavano di 5-10 mila lire. Ecco, bisognerebbe che i ragazzi, invece che vengono spediti fuori a mangiare la pizza con gli amici e così via, che sapessero, voglio dire, l'entità del valore del denaro, affinché diciamo possano presentarsi dopo anche loro a sua volta come genitori e avere lo stimolo di avere voglia di creare qualcosa anche loro, perché abbiamo tutti, diciamo, l'ambizione, mio figlio fa il liceo, mio figlio dopo andrà all'università, ma che facoltà farà il tuo? Ma voglio dire, di questi tempi abbiamo tanta gente che studia e poca gente che lavora, dobbiamo fare un'importazione da altri paesi, in particolar modo dalla Romania, per lavori manuali che purtroppo i nostri figli non sanno fare. Grazie Giampaolo, sentiamo anche Cristiana che ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Ma allora, io volevo dire che sono intanto appunto mamma di due bambini, di cui il grande è in prima media, e quello che mi sforzo, insomma, con mio marito facciamo quotidianamente è quello di spiegare che il sacrificio è fondamentale. È ovvio che un bambino, un adolescente magari può non non essere portato per l'impegno, per il sacrificio, però secondo me è fondamentale spiegarglielo fin da adesso, perché poi quando saranno grandi la vita non regala niente a nessuno, per cui è bene farlo da adesso, da che sono piccoli. È ovvio che io viaggio un po' controcorrente rispetto a tanti altri genitori che continuamente no, poverino, e la mattina si sveglia presto per andare a scuola e no, poverino, c'ha tanti compiti da fare. Invece sono dell'idea che per loro questo sia un bene, anche se adesso ovviamente non viene capito, però io l'ho capito e ringrazio i miei genitori perché l'ho capito da... insomma, crescendo, no? Ed è faticoso, Cristiana, è comunque una trattativa continua, no? Bisogna star dietro loro, nonostante, insomma, io e mio marito siamo due medici, quindi insomma non è che... però è un impegno costante e anche un po' controcorrente, perché non siamo sempre circondati da genitori che la pensano come noi. Io sono convinta che sto facendo bene i miei figli, anche se loro in questo momento, soprattutto il grande, non ha voglia di studiare, non ha voglia, cioè vorrebbe giocare giustamente a pallone da mattina a sera, però capirà che la vita non gli regala niente quando è più grande, per cui a un certo punto o si studia o si lavora, non c'è una terza possibilità. Questo sicuramente. Vincenzo ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Io volevo fare un intervento riferendomi proprio all'introduzione del direttore Polito, e a proposito del fatto che gli italiani non escono di casa. Io credo che bisogna vincere anche un po' il luogo comune, perché stare a casa prima di sposarsi non è necessariamente un fatto negativo. Dipende come si sta a casa, perché se a casa si sta come in un albergo, allora mi rendo conto che si rovina il ragazzo, ma se al contrario in casa si sta rispettando dei ruoli, dei compiti, portando avanti anche un'attività virtuosa di assistenza nei confronti dei propri genitori, il ragazzo che è a casa è tutt'altro che un peso morto per la società, è uno che avrà un'esperienza di vita tale che quando sarà lui responsabile di una famiglia potrà trasmettere molti valori di gratuità e di servizio per gli altri, anche ai propri figli, e soprattutto sarà una testimonianza in questo senso. Io credo che con il proprio genitore, io sono padre di tre figli, non c'è soltanto un obbligo o un tentativo di scontro, ma il figlio ha nei confronti del genitore anche la ricerca di una identità che poi dopo si trasforma in un atto di gratitudine gratuito quando il genitore non ha più la possibilità di stare e di occuparsi di se stesso. Ora, con una società che ahimè si sta sempre più invecchiando, non dimentichiamoci del ruolo dell'assistenza dei figli ai genitori. Basta guardare quello che sta accadendo in Cina, che con il modello del figlio unico oggi si sono accorti dell'importanza di dare assistenza ai propri genitori, assistenza che significa risparmio per l'erario. Quindi cominciamo a dare anche valore pubblico alla generosità che si impara e si comincia a praticare soprattutto in casa. Io sono contro e non ce la faccio più a sentire persone che continuano a dire che la cultura italiana fatta di persone che rimangono in casa fino a tarda età è necessariamente errata. Chi ha vissuto all'estero si rende conto cosa significa invecchiare nei paesi che a 18 anni hanno i propri figli che vanno via di casa. Chiarissimo. Vincenzo, la sua posizione mi sembra chiarissima. All'epoca del pane nero, Antonio Polito si teneva una figlia nubile apposta per questo, apposta per accudire i padri dopo, no, i padri o i genitori quando diventavano vecchi. Però secondo me Vincenzo merita una risposta, perché la riflessione che immagino non condividerai è interessante. Ma intanto sì, io ho una simpatia molto forte per il discorso che ha fatto Cristiana, e lo voglio dire subito, perché penso anch'io che l'elemento della responsabilità e del sacrificio siano parte costituente della formazione di un adulto, e quindi è giusto anche che attraverso l'esempio, non attraverso le prediche, perché poi non c'è altro modo per parlare con i figli, questo ci sia in famiglia. Per quanto riguarda quello che dice Vincenzo, lui ha ragione nel segnalare che questo sistema costruisce un welfare familiare abbastanza unico in Italia, un caso abbastanza eccezionale nel mondo, e che presenta i suoi aspetti positivi, per esempio l'accudimento degli anziani, perché i figli non è soltanto che restano in casa, fino a lungo, fino a 34 anni siamo al 50%, ma è anche il fatto che quando vanno fuori la metà di quelli che si sposano prendono casa nel raggio di un chilometro dalla casa di uno dei due genitori, di una delle due coppie genitori della coppia matrimoniale. Quindi è chiaro che serve a quello, però neanche possiamo, diciamo, non vedere gli svantaggi che derivano da questa situazione. Per esempio l'università sotto casa, per esempio quanto costa al sistema Italia l'università sotto casa e che risultati produce, che lauree dà, sono vere quelle lauree, sono lauree che poi ti abilitano a competere nella società verso cui andiamo? No, però costa tantissimo. Quindi noi, in qualche modo, siccome la coperta è sempre quella, se noi risparmiamo dal terreno del welfare, perché appunto, risparmiamo in asili nido e in case per anziani, perché tanto ci sono i figli o i nonni, da qualche altra parte ci perdiamo, buttiamo via dei soldi. Questa è una valutazione, naturalmente noi possiamo scegliere il modo che più ci aggrada, ma dobbiamo sapere che non è un gioco a somma zero, che da qualche altra parte ci perdiamo. Per quanto riguarda quello che diceva Giampaolo, ha ragione anche lui, in tutto il mondo i ragazzi entrano il più presto possibile in contatto col mondo del lavoro, anche attraverso lavoretti banali, tipo il gelataio, il McDonald's, la babysitter per gli amici, eccetera, perché il lavoro, il contatto col lavoro insegna anche la disciplina, il rispetto, tutte le cose che servono poi per entrare nel mercato del lavoro. Ma una frase mi ha colpito che ha detto noi abbiamo troppe persone che studiano e poche che lavorano, troppi giovani che studiano e poche che lavorano. In realtà non è neanche così, perché noi abbiamo poche persone che lavorano e poche persone che studiano. Noi abbiamo nella fascia d'età tra i 14 e i 24 anni, tra i 16 e i 24 anni, abbiamo il 50% che studia e che è meno del resto d'Europa. Il 30% nel mercato del lavoro, e dentro lì ci sono tutti i disoccupati giovani di oggi, e poi abbiamo un 20% che non fa nulla, non studia, né si prepara al lavoro, né sta lavorando. I cosiddetti NEET, no? La sigla famosa degli sondaggi, eccetera. Ora, 20 su 100 è un record mondiale. Nessun altro paese occidentale sviluppato ha questo numero di persone che aspettano. Non studiano né lavorano, quindi io per me mi sarebbe bene che ci fosse più gente che studiasse. Il problema non è soltanto o più gente che lavorasse, ma la cosa importante è che noi riduciamo la fascia di queste persone, di questi giovani, totalmente fuori da tutte le attività. Chiarissimo, c'è innanzitutto un tweet bello secondo me di Serena Ronca, ci scrive: largiamo ai nostri figli le libertà che non abbiamo avuto noi, ma li priviamo della libertà di conquistarle, che secondo me non è niente male. C'è una cosa che mi ha colpito molto all'interno del libro, in realtà sono due dati alla fin fine, due elementi di dato che mi hanno colpito molto. Il primo, visto che stavi parlando di università appunto e di educazione, è quello tratto dalla ricerca realizzata tra gli altri dal ministro Fornero, ma non solo, adesso non ricordo quali erano le altre due ricercatrici, che indica insomma come sostanzialmente ci sia una correlazione negativa, come ovvio che sia, tra la proprietà di casa e l'investimento negli studi dei propri figli. Ecco, in Italia si è privilegiata, e forse anche questo è un aspetto del problema, si è privilegiata la proprietà immobiliare rispetto appunto alla spesa per l'educazione dei propri figli, quando in paesi come negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, dove abbiamo tassi di innovazione molto più alti e che vengono prese spesso come esempio da questo lato, tanto che, e questo è l'altro dato che mi ha colpito, il 40% del prodotto interno lordo americano viene da aziende nate dopo il 1980. Attenzione, aziende nate dopo il 1980, il 40% del prodotto interno lordo americano. Ecco, questo della proprietà immobiliare versus la spesa per lo studio mi sembra un dato centrale. Ma questo è un tratto culturale tipico, chiunque lo sa, insomma, noi siamo il paese con il maggior tasso di proprietari di casa, l'80%, perché tutti i nostri risparmi, che non sono pochi, perché noi abbiamo dei risparmi che sono pari a 4 volte il nostro debito pubblico, quindi insomma siamo tra i paesi più capaci di risparmiare al mondo, ma diciamo in generale tutti i nostri risparmi vengono indirizzati verso l'acquisto del mattone, verso la casa, molto spesso è la casa di proprietà dove uno vive che poi si passa al figlio, o se uno ci riesce un altro appartamento per darlo poi ai figli quando se ne vanno e si sposano. In altri paesi effettivamente si mette da parte per gli studi dei figli. Questo io ho vissuto in Gran Bretagna, avevo amici che avevano proprio dei fondi di accantonamento, pagavano delle rate mensili, no? In un fondo che poi a una certa età del ragazzo veniva un saldatario, veniva aperto e si finanziavano gli studi del ragazzo. Questo perché? Allora, anche qui è una scelta da fare. È chiaro che tu, se tu gli lasci la casa, gli lasci un po' di patrimonio. Se tu gli lasci un'istruzione, se tu l'aiuti a farsi un'istruzione elevata, gli lasci del reddito però. E molto spesso bisogna valutare, perché il reddito che dà un'istruzione elevata e capace di competere nel mercato del lavoro è forse superiore come redditività del patrimonio immobiliare. Quindi anche qui è una questione culturale, cominciamo a ragionare, cominciamo a sederci a fare i conti, è meglio che veramente gli compro la casa a un chilometro da me, così diciamo retropensiero, poi resta con me quando io ne avrò bisogno, oppure è meglio che gli pago l'università se è capace e ha voglia di farlo, non lo so, in Inghilterra, in Germania, in Francia, alla Bocconi, oppure alla Normale di Pisa, pubblica, privata, quello che sia, ma una scuola che lo aiuti a raggiungere poi un reddito elevato per sé. Questo è un po', anche qui è una scelta. L'unica cosa che io dico, dobbiamo sapere che non sono mai scelte indolori, cioè non è che possiamo avere l'uno e l'altro. L'idea che noi possiamo comprare la casa ai figli e avere anche l'università di livello, perché tanto è gratuita, è un'ipocrisia, perché quell'università non serve allo scopo per cui la vogliamo. Quindi sapere che stiamo facendo delle scelte, che stiamo investendo i nostri soldi e dobbiamo scegliere della forma più redditiva. Chiarissimo, anche se qualcuno non sarà d'accordo nel considerare appunto, però così è a tutti gli effetti. L'idea di utilizzare un aggettivo come redditiva appunto per l'educazione dei figli, mi sembra anche che sia una risposta a chi dice, insomma, Polito parla solamente dell'1% della generazione, ce lo scrivono su Twitter, della popolazione, dell'1% dei genitori e figli italiani, perché qua appunto si tratta di scelte di investimento, in sostanza, insomma, no? Scelte di spesa. Ti compri la casa o dai a tuo figlio un'educazione che gli consenta di avere un reddito alto nel futuro? E si tratta anche in questo caso di scommettere sul futuro, chiaramente. La proprietà di una casa ti dà il bene immediatamente, ti dà patrimonio, quella su tuo figlio appunto è una scommessa sul futuro, sul suo futuro. E prendiamo altre telefonate, come vi dicevo, particolarmente oggi su un tema come questo, le vostre testimonianze che sono sempre importanti, sono particolarmente importanti. È in attesa da più tempo Roberto, che ci chiama dalla provincia di Pesaro. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Prego. Volevo intervenire su due punti. Uno sull'ultimo che ha detto Politi, che sono sull'investimento. Io incarno, ho 44 anni, un figlio di 10. Vengo da una famiglia proprietaria, mio padre e mia madre due operai, hanno investito sul mattone, mi hanno lasciato la casa, poi io mi sono fatto da me, sono un figlio unico un po' strano perché mi ha lasciato molto libertà, ho fatto un lavoro, sono stato operaio, poi ho fatto la scuola infermieri, sono diventato un infermiere professionale, mi sono gratificato nella professione. Mia moglie viene da una famiglia dove hanno investito sull'università, la sorella di mia moglie è medico e mia moglie è laureata in matematica e non hanno lasciato il mattone. E questo già la voglio dire una cosa. Poi invece su quello che riguarda l'investimento sull'università ho dei grossi dubbi. Io ho medici che hanno figli laureati, appena laureati, con masterizzate e quant'altro. Uno fa il portiere alla Ferrari e deve guardare i cartellini di chi timbra a 1000 euro. La generazione di 1000 euro non la dimentichiamo. Noi stiamo creando una generazione che non supererà mai quella dei genitori. Mio padre ha migliorato la qualità di vita di mio nonno, io ho migliorato la qualità di vita di mio padre e la prossima società non riuscirà assolutamente a migliorare la qualità di vita nostra. Per quanto riguarda come genitore mi sento d'accordo con Politi, sono ipercritico. Sì. Polito, sono ipercritico su come gestisco mio figlio, perché ci hanno inculcato il seme della paura, accompagniamo i nostri figli a scuola, li teniamo dentro casa, li proteggiamo da tutto, non li facciamo crescere. Sono assolutamente ipercritico su me stesso, perché non riesco, non so perché ci è inculcata questa paura assoluta. Quando io andavo a scuola alla prima elementare da solo, beh, abito in una provincia, ma comunque facevo un bel pezzo di strada da solo, ci hanno inculcato questa paura qui. E poi un'altra cosa che volevo dire, sì, quello l'ho detto, perché sono molti punti che mi trovo d'accordo, assolutamente, però non credo che tenere in casa i figli sia corretto. Io sono d'accordo, sono molto critico sui papà, ha ragione assolutamente, per me non li gestiamo in maniera giusta. Perfetto. Noi in linea, il seme della paura, in linea con Polito, il seme della paura. Sentiamo anche Luciano che ci chiama da Venezia, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, altrettanto buongiorno. Allora, io volevo dire questo, prima ho sentito un signore che ha detto che noi abbiamo raccontato delle bugie ai nostri figli perché abbiamo fatto. Non è vero, noi abbiamo raccontato quello che eravamo convinti, perché nessuno finora ha dimostrato di riuscire a prevedere il futuro. Tutti i grandi esperti, ad esempio, di borsa. Cosa intende Luciano, di cosa parla, mi scusi, del progresso? Ha detto che noi abbiamo fatto credere ai nostri figli che il progresso, perché il benessere sarebbe andato avanti all'infinito con una linea esponenziale. Noi non abbiamo raccontato bugie ai nostri figli, noi abbiamo raccontato quello che tutti erano convinti fosse, quindi non sono bugie, è l'ignoranza che ci ha fatto credere questo, e lo sta a dimostrare che quando è accaduto, vediamo la borsa, nel 29 tutti grandi espertissimi, nessuno aveva previsto che dal mattino alla sera del venerdì è successo quello che è successo. Adesso col crack della banca in America, nessuno di tutti i grandi esperti era riuscito a prevedere per tempo. E altrettanto io ho un piccolo aneddoto da raccontare. Quando è andato in borsa la Geox, il venerdì mattina, io rientravo da una città, era 60 km, volevo arrivare in banca per fare prenotazione e correvo da matti, ho passato eccetera, intanto ascoltavo proprio Radio 24, qui il Salvadanaio, c'era un direttore di banca, grande esperto, che spiegava scientificamente perché non conveniva che avrebbe avuto un crollo, era sopravvalutato. Luciano, non entriamo, per favore mi scusi, non entriamo sulle singole azioni, il concetto che ha voluto esprimere è chiaro, insomma, il fatto che non si potesse prevedere, che non si può prevedere, insomma, il futuro e quindi l'eventuale progresso. Voglio sentire anche Daniele da Pescara e poi Polito. Daniele, buongiorno. Salve, pronto? Sì, eccoci. Allora, eccomi qui. Guardi, allora, io ero un po' critico sull'attacco, diciamo, ai padri. Io sono un padre di nuovissima generazione. Ho un figlio di 3 anni, io ne ho 38, quindi sono... Io ho avuto però non un padre, ma una madre che ha voluto fare anche il padre, perché io, mio padre poi non c'era. E mia madre era la classica tipo, io credo che Antonio Pio si rifacesse proprio, a quelli che dicevano che i figli si baciano solo di notte, perché se poi li baciavi di giorno c'era il rischio o che si montavano la testa o che cosa, insomma. Mia madre si opponeva in tutto. A volte si opponeva anche in cose in cui io pensavo assolutamente di avere ragione, e l'opposizione, cioè, sia mai gli do ragione una volta, perché se gli do ragione una volta ho paura, ecco, che si monta la testa. Spesso era anche proprio la mancanza di volontà di porsi in un ragionamento. E insomma, le è servito Daniele o no? Non mi è servito, mi ha portato dentro, io non so, sbaglio, tutto dal punto di vista assolutamente soggettivo, mi porto dentro una sorta di rancore che a me ha fatto scappare di casa, perché io me ne sono scappato di casa quando avevo, da precario, da tutto quello che volete, perché non ho più sopportato sentirmi dire, fin quando stai qui, ospite mio, mia madre, ho ragione io, ma la ragione non la può determinare il padrone di casa, la ragione la possono determinare i fatti, le circostanze, ci possono essere più aspetti di una ragione, ci possono essere più sfaccettature, più sottigliezze, più sfumature, ma non esiste la ragione del padrone di casa. E allora io me ne sono andato, io con mio figlio, non, voglio stabilire a delle ragioni da posizione a prioristiche, cioè ragiono sui fatti, per l'amore di Dio, a 3 anni, il capriccio, ho paura come tutti i padri moderni, sono ipercritico anch'io ho paura di crescere un porco, ve lo posso assicurare, però quando mi pongo in ragionamento cerco di sviscerare delle realtà. Se mi rendo conto che c'è il capriccio, c'è il muro duro da parlare, allora intervengo anche forte. Naturalmente. Grazie Daniele. Antonio Polito, abbiamo un minuto e mezzo circa per dare un giro di risposte agli ascoltatori. Tanto che bella discussione, perché sai, insomma, il rapporto con i propri genitori e quello con i propri figli è forse una delle cose più difficili da affrontare, anche più esaltanti come prove. Il mio non è un manuale, tra l'altro io sono per l'amore, io sono per una dosi generosissima di amore. Quello che non mi convince è quando i genitori diventano i sindacalisti dei loro figli, cioè gli danno ragione a prescindere e magari vanno a litigare con l'insegnante perché gli ha dato un brutto voto che forse meritava. Per quanto riguarda Luciano, è vero che ovviamente la crisi non si poteva prevedere, o almeno noi gente comune non eravamo tenuti a prevederla, e questa recessione è una roba che ci è capitata e che prima o poi finirà, ma il punto non è quello, è che prima di questa recessione, negli ultimi 15 anni, l'Italia era ferma al palo e abbiamo fatto finta di non vederlo, perché a tutti conveniva mantenere una serie di sistemi che erano comodi ma che fermavano il paese. Negli ultimi 15 anni, prima della crisi, noi non siamo praticamente cresciuti, ci siamo impoveriti rispetto agli altri, e l'unico modo di garantire alle future generazioni un reddito come il nostro, migliore del nostro, è quello di creare ricchezza, e noi non l'abbiamo fatto negli ultimi 20 anni. Antonio, ti devo interrompere perché siamo veramente in chiusura. Un ringraziamento a Carmelo Lauricelli in regia, Franco Piantanida in assistenza, Alessandro Marcotulli in redazione, Rose, Eleonora e Sabrina al centralino. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, una buona giornata e ci sentiamo naturalmente domani. Radio 24, la passione si sente.